America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Mr. President, every day and everywhere people strive to overcome fear, achieve justice and persevere through hardship and uncertainty to protect their families and livelihoods and to assure a better future for their children. Avete sentito il presidente del Consiglio Mario Monti dal podio delle Nazioni Unite. Ieri ha aperto il suo discorso, il primo davanti all'Assemblea Generale dell'ONU, promettendo un'Europa più forte. Ecco, è un discorso che mi ha colpito molto, questo di Mario Monti, perché ha toccato ovviamente tutte le grandi tematiche aperte sul fronte internazionale, dall'instabilità del mondo arabo ai problemi dei diritti umani a quelli ambientali, ma è stato con il suo passaggio in apertura sulla crisi europea, sulle sfide, ma anche sugli inevitabili percorsi di rinascita che il continente europeo ha davanti a sé, che Monti, secondo me, ha fatto la differenza rispetto ad altri leader del presente, leader europei, e del passato, leader italiani. Perché? Beh, perché si è presentato davanti al mondo come cittadino europeo, prima ancora che come cittadino italiano. E questo è un messaggio molto, molto forte anche sul piano personale, oltre che sul piano simbolico, perché nessun leader europeo, per quel che ho sentito, finora aveva dato questo messaggio con tale forza. Ed è un messaggio questo che riguarda non solo la soluzione della crisi, ma gli assetti futuri della nostra Unione. Sentiamo Monti ancora. We cannot overlook the importance of the measures being taken at the EU level. Ecco, in questo passaggio Monti dice: non possiamo sottovalutare l'importanza delle misure adottate dall'Europa per rafforzare la governance e l'integrazione fiscale. Ha poi ricordato Jean Monnet, che diceva: l'Europa sarà costruita attraverso delle crisi che Monti ha riconosciuto in questo discorso. Ha detto che nel 2011 i mercati finanziari hanno dato gravi manifestazioni di nervosismo perché erano preoccupati ovviamente dal deterioramento delle finanze pubbliche, ed ha ammesso, e cito di nuovo Monti: quello che stiamo attraversando non è uno squilibrio ciclico corrente, è la crisi più grave e profonda della storia dell'Unione Europea. Altre crisi hanno minacciato il progetto europeo in passato, ha detto ancora Monti, ma ogni volta gli europei hanno trovato una via per continuare nel cammino che hanno intrapreso oltre 50 anni fa. E Monti, vi dicevo, ha riaffermato sia sul piano personale che su quello politico l'impegno irrinunciabile nella costruzione della casa europea. Un messaggio diretto ovviamente a tutti coloro che qui in America, ma anche nel resto del mondo, ritengono che la crisi metterà in ginocchio il vecchio continente, eliminando sia l'esperienza dell'euro che quella di un'unione che si è fatta in realtà sempre più forte negli anni. Apro qui una parentesi, perché Monti martedì sera ha partecipato a una cena secondo me molto significativa, perché c'erano il segretario di Stato Geithner, c'erano Dudley, il presidente della Federal Reserve di New York, vari altri esponenti dell'economia e della finanza americana. È stata una cena, devo dire, da quel che ho sentito, molto amichevole. Non è stata una cena necessariamente tecnica, è stata una cena per uno scambio di vedute, ma ho saputo che il segretario al tesoro Geithner ha espresso parole di straordinario apprezzamento nei confronti di Monti quando è intervenuto in questa tavola rotonda che avveniva a cena. E l'intervento di Geithner è stato un intervento di straordinario riconoscimento per l'opera che ha condotto Mario Monti. Un segnale questo che secondo me rafforza quel che vi dicevo in apertura di questi lavori delle Nazioni Unite, perché la settimana scorsa ero stato a Washington, avevo visto un funzionario del Dipartimento di Stato. Insomma, è chiaro che l'America è grata a Monti per quello che ha fatto, punta su Monti perché continui a fare questo suo lavoro nei mesi che gli restano, e naturalmente indirettamente esprime l'auspicio, perché questo è stato poi il messaggio di Geithner l'altra sera, esprime l'auspicio che comunque l'azione di Monti abbia aperto una strada, abbia dato degli insegnamenti morali, tecnici, che non dovrebbero essere dimenticati con un prossimo governo. Today the world has learned how essential a viable Europe is. Ecco, avete sentito di nuovo il presidente del Consiglio, in questo caso dà dei messaggi esterni sempre in relazione all'Europa. Il mondo ha imparato quanto un'Europa produttiva sia essenziale per affrontare le sfide dell'economia e della sicurezza globale, e quanto l'eurozona sia importante per la ripresa dell'economia globale. Oggi è chiaro che più Europa è nell'interesse generale, ha detto. In questo c'è anche un implicito messaggio messaggio interno all'Europa, secondo me è un messaggio che è diretto all'Assemblea delle Nazioni Unite, che si deve anche occupare di riforma del Consiglio di Sicurezza, perché nel momento in cui l'Europa cresce e si rafforza, gli interessi nazionali ovviamente diminuiscono, e dunque, anche se Monti questo non l'ha mai detto direttamente, perseguire disegni nazionali come sta facendo la Germania per le riforme del Consiglio di Sicurezza è un progetto anacronistico che guarda al passato, secondo me, invece che al futuro. Tanto che, invece qui Monti l'ha detto, riferendosi alle misure adottate a livello europeo, il Presidente del Consiglio ha sottolineato è anche essenziale che i governi europei trasmettano le misure di riforma, di integrazione fiscale e di governance a livello nazionale. E qui l'accenno all'Italia. L'Italia continuerà a fare la sua parte per rafforzare la sostenibilità fiscale e stimolare la crescita. Instability around the Mediterranean impacts our own security. Ecco, l'instabilità del Mediterraneo, ha detto Monti, ha un effetto diretto sulla nostra sicurezza. I disordini, i conflitti sociali sulle coste meridionali del Mediterraneo si riversano sulle nostre coste. Il terrorismo trova nuove vie per raggiungere l'Europa. Il traffico di esseri umani ha effetti destabilizzanti sui paesi di destinazione. Spesso si risolvono in eventi tragici in mare che non possiamo più accettare. Non possiamo lasciare che la situazione si deteriori di più. E l'Italia farà la sua parte insieme ai nostri partner e agli stati della regione. The Arab Spring has experienced difficulties. Un auspicio per le primavere arabe. Nulla è facile, ma nulla è impossibile, ha ricordato Monti. E infine un messaggio alla Siria. Occorre che i massacri, le violazioni dei diritti umani e civili in atto in Siria e nelle città siriane a partire da Damasco si interrompano, perché la storia, ha detto ancora il Presidente del Consiglio, non sarà indulgente nel giudicare i responsabili. Bene, un discorso a tutto tondo quello di Monti, ha parlato poi anche di ambiente, ha parlato di diritti umani, di educazione, di missioni di pace. Sappiamo che l'Italia è coinvolta in primissimo piano nelle missioni di pace e al sesto posto per i contributi a livello globale. Una giornata, quella di ieri alle Nazioni Unite, che è stata anche caratterizzata dall'intervento di Ahmadinejad, un intervento che ha colpito, perché come al solito Ahmadinejad ha straparlato, ha attaccato il Consiglio di Sicurezza dell'ONU perché dice che non concede libertà all'Iran nel procedere coi suoi programmi fra virgolette pacifici. In realtà l'Iran non rispetta le risoluzioni dell'ONU, si sta comportando da paese canaglia, e le nazioni europee, proprio per riaffermare questo punto, si sono alzate e se ne sono andate proprio nel momento in cui Ahmadinejad ha cominciato a pronunciare le parole più offensive. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sui tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Andy Williams, grandissimo cantante americano, straordinaria interpretazione di Moon River, Days of Wine and Roses, è scomparso dopo una lunga battaglia con il cancro ieri all'età di 84 anni. È un cantante straordinario, le canzoni sono davvero straordinarie, sono fra quelle che amo di più fra le canzoni americane. Dunque a lui voglio dedicare la canzone del giorno di Andy Williams, Moon River. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!